La diocesi di Milano è una delle più popolose del mondo, se non la più popolosa, e conta, tra battezzati e non battezzati, tra cristiani e gente di altre religioni, 5 milioni e mezzo di persone. È per questo che il cardinale Scola qualche anno fa disse che bisogna aumentare il numero degli esorcisti, che erano tra giovani e anziani 5 o 6. E ne ha fatti una dozzina, di cui faccio parte anch'io. Li ha riuniti, si dice, in un collegio di esorcisti, in un centro diocesano che come nome ha proprio questo, Gerasa, preso da questo brano di Vangelo, che chiarissimamente è un brano in cui si afferma l'azione e la presenza del demonio. Io con tutta la buona volontà non riesco a capire quei cristiani e quei preti che si ostinano a dire che boh, sa, chi lo sa, forse c'è, non c'è. Ma amici, qui viene descritto un vero e proprio esorcismo e io passo passo ve lo voglio illustrare. Anzitutto, quando Gesù arriva, quell'altro si accorge subito. Gli venne incontro un uomo posseduto dai demoni. Non portava da molto tempo vestiti, non abitava in casa, ma in mezzo alle tombe. Infatti i cimiteri e tutto ciò che è parla di morte, parla di peccato, parla di buio, è il luogo preferito dai demoni e da quei satanisti che vogliono fare le loro porcate. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Alcuni dicono che sì, nel Vangelo si confondono gli ammalati con gli indemoniati. A me pare proprio di no. Un ammalato non si mette a dire a Gesù: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo?» Lo riconosce che è figlio di Dio. Gli altri non lo riconoscevano, ma il demone lo sa. «Ti prego, non tormentarmi». È patetico che il diavolo si mette a pregare Gesù, magari con le mani giunte. «Ti prego, non tormentarmi». Gesù è infinitamente superiore ai demoni, e i sacerdoti che a nome della Chiesa e col sangue di Cristo attaccano i demoni non hanno paura, sono i demoni che hanno paura degli esorcisti. Molte volte il demone si era impossessato di lui, allora lo tenevano chiuso con catene, ceppi, ma lui rompeva tutto e scappava. La persona indemoniata non è indemoniata tutta la vita e tutti i momenti, ha i suoi attacchi. E questo qui era un momento di attacco e hanno una forza formidabile. Io quando faccio esorcismi e la persona è lì bloccata da 4, 5, 6 persone, qualcuno di voi viene ad assistermi e lo sa, la forza che ci vuole. Gesù gli domanda, va avanti con l'esorcismo e gli chiede: «Qual è il tuo nome?» Anche il sacerdote chiede il nome al demone e mica sempre quello gli risponde, certe volte lo deride, il sacerdote non è Gesù. Perché gli chiede il nome? Perché quando uno ha detto il nome un po' si è scoperto e questo gli dice: «Sono una legione». La legione erano 12.000 soldati, la legione romana, per dire. E raramente il sacerdote incontra una persona posseduta da un solo demone. Chi sono 3, 4, 7? Ultimamente ho detto: «Quanti siete?» «Molti». E ricordo che una volta durante un esorcismo, questo che si era qualificato come Lucifero dice, siccome era in difficoltà, dice: «A me schiere di demoni!» E ho detto: «Oh, San Michele, sono belle fritto, guarda, vieni anche tu con i tuoi, se no questi qui mi schiacciano!» anch'io ho invocato le schiere di Michele e degli angeli, ma se ne devono andare, ma non vogliono andare all'inferno. Lo scongiuravano che non ordinasse loro di andare nell'abisso. All'inferno non ci sta volentieri neanche il diavolo, perché quei mistici che hanno visto in visione l'inferno, qualcuno dice: ma il tal teologo ha detto che non c'è nessuno all'inferno. Beh, dica quello che vuole, io preferisco credere ai santi che hanno avuto delle visioni, compresa Santa Faustina, compresi i tre pastorelli di Fatima, e hanno detto: è un luogo tremendo, buio, puzzolente, pieno di anime nel fuoco, bruciante. I demoni non vogliono andare all'inferno, neanche loro, pensate. E la gente non prende sul serio l'inferno, amici. Chiediamo che il Signore salvi le anime che sono in peccato mortale e che si stanno avvicinando alla morte anche nella giornata di oggi, che le salvi. E allora loro finiscono nei porci, e cosa fanno? Tra l'altro è uno sfregio, il maiale era un animale impuro, e il loro posto giusto è quello lì. Ma loro, come sfregio all'umanità, li fanno affogare tutti quanti. Ho voluto spiegarvi abbastanza a lungo questo brano affinché non dimentichiate mai Gerasa, l'indemoniato di Gerasa, e portatelo ai vostri amici che vi dicono: è facile, è il Vangelo di Luca, capitolo 8, se lo ricordate andate a cercarlo.